Qui a Rock FM sono le 8 precise. Seconda ora di diretta. Restate con noi. Siamo in squadra insieme. Pane, burro e rock and roll. Fino alle 9. La tua colazione. Per chi si sveglia adesso, abbiamo azzeccato un ambo su Milano. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Poi sono cose che non accadono tutti i giorni, soldi come se piovesse. È venerdì, diamo, cioè è l'ultimo giorno per ascoltare e non ci resta che piangere. Però è stato carino ascoltarlo tutta la settimana, no? Allora, il treno. Il treno è costruito così, Leonardo, due binari, più facile si muore. Ma lunghi, ma puoi arrivare anche in Africa. Te non ti preoccupate, se ne finisce subito è binario morto. Vai a lungo, due pezzi di ferro. Dio, due pezzi di ferro li saprete costruire. Di ferro duro, due pezzi di ferro duro, con due cose di legno dentro. Va bene? Vai con questi due pezzi di ferro, dove ti pare? Curvi quando c'è da curvare, salisci, scendi. Leonardo, guarda. Ora disegno io, sì. Disegno peggio di lei, scusi se mi permetto, Allora, ecco, chissà, ecco come l'hai fatto il binario. Questo è sul legno. E sopra c'è il treno. Tutto di ferro, fumo che sbuffa, tuff, e c'è. Treno. Come fa ad andare questo treno? Si butta la legna nella caldaia, il calore vi sviluppa energia, questo treno va. Brucia. Ma allora anche il camminetto va. Bravo, eh? No, il camminetto non va. Già, come mai? Non va, Va bene. Enough room to cram the drums in the corner over by the Dodge. It was a 54 with a mashed up door and a cheesy little lamp, with a sign on the front said Fender Champ and a second hand guitar. It was a Stratocaster with a whammy bar. We could jam in Joe's garage. His mama was screaming, turn it down. Playing the same old song in the afternoon, and sometimes we were playing all night long. It was all we knew and easy too, so we wouldn't get it wrong, even if you played it on the saxophone. We thought we was pretty good. We talked about keeping the band together, and we figured that we should, 'cause about this time we was getting the eye from the girls in the neighborhood. They'd all come over and dance around like. So we picked out a stupid name, had some cards printed up for a couple of bucks, and we was on our way to fame. Got matching suits and Beetle boots and a sign on the back of the car, and we was ready to work in a go-go bar. One, two, three, four. Let's see if you've got some more. People sing it like a song. They got up and danced and made a lot of noise, and it wasn't for very long. A guy from a company we can't name said we ought to take his pen and sign on the line for a real good time, but he didn't tell us when. These good times would be something that was really happening. So the band broke up, and it looks like we will never play again. Get one chance in life to play a song that goes like. Turn it down. Turn it down. I have children sleeping here. Don't you boys know any nice songs? Well, the years is rolling by. Snotty boys with lipstick on, 'cause we're to play your jokes right. If I am not wrong, you will soon be dancing to the. Ormai qualche giorno, come se l'avessimo adottato, il piccolo bambino di riferimento di Pane, Burro e Rock and Roll, ad accomunare tutti i piccoli amici e le piccole amiche che vanno a scuola con i loro genitori. Che tenerezza questo contatto con i bambini. Lui si chiama Francesco e Spadino ci fa gesti che potremmo già averlo in linea. Pronto Francesco? Eccolo, ciao. Ciao Francesco. Senti un po', fermo un attimo, fatti subito sgridare, basta con questa cosa delle goccette alla mamma. No, veramente, può essere pericoloso, Francesco. Vabbè, non lo faccio più. E poi basta con questa cosa di andare a scuola, ci siamo andati tutti, Francesco. Io voglio il burro e rock and roll, pane e burro e rock and roll. No, ho capito, guarda, ci fa piacere che vuoi pane e burro e rock and roll, però quest'oggi veramente non fare più quella cosa, è pericoloso maneggiare le gocce della mamma. Va bene. Promesso. Guarda che a scuola si imparano tante cose, poi ci sono le compagnucce di classe. Esatto. E insomma, non è così noioso. A scuola si imparano tantissime cose importanti. Vedrai che anche Ascolta il metal. Si può ti porti le cuffiette. Vedrai che quest'oggi a scuola, fidati, ti divertirai. Vabbè, ma io a scuola oggi non ci vado. Come non ci vai a scuola? No. Francesco, passaci subito la mamma, dai. La mamma non c'è. Come non c'è la mamma? Sei in macchina? Sì, ma lei è al commissariato. Come al commissariato? Al commissariato. Io non ci voglio andare. Allora ho gridato, i carabinieri, ho detto: aiuto, io rapisco. No, fermo. Spiega la situazione. Tu tiri giù il finestrino e gridi. E grido: mi rapisce. No. Mo sta al commissariato. Di solito vengono tutta la mattina. Come di solito la tengono tutte le mattine? Sì, ho fatto un par di volte, no? Quante volte l'hai fatto? Io non so contare, 5, 6, 70, che cazzo mi frega? No, Francesco, per favore, devi smettere. Ma insegnavo mamma parolaccia. Dai, ti ha insegnato mamma parolaccia, no, ma non puoi permettere di fare queste cose per non andare a scuola, Francesco. Le sarà scappata la parolaccia, le mamme non dicono parolacce, Francesco, dai, valla a recuperare. Va bene. Dille che le vuoi bene. Ma tanto sempre lì, dopo esce, caramelle, compra. Dopo esce. No, Francesco, per favore. Tu hai una mamma troppo buona, Francesco, non te ne devi approfittare. Ma perché di Megadeth? Io voglio essere Megadeth. Va bene, Francesco, lo faremo per te, però tu promettici Motley di non... Crew, voglio essere Motley Crew. Ho capito, va bene, promettici di non far più una cosa del genere. Va bene, Francesco, ma se vuoi fare il cantante, poi devi scrivere i testi delle canzoni, devi imparare. Motley Crew. Grazie Francesco, vai dentro in questura a prendere la mamma, per favore. E dopo vai a scuola. Ciao. Si imparano tante cose, si scrivono le canzoni dopo. È un rocker. Ciao Francesco. È un rocker. Decisamente. Mi fanno paura questi bimbi d'oggi, sai? Sono preoccupato. Love, I give to you. Blue as the sky, deep in the eyes of a love so. Count on Me, Jefferson Starship, nella diretta di Pane, Burro e Rock and Roll di questo 19 di ottobre, un folle venerdì che stiamo passando insieme anche quest'oggi. Allora, facciamo un po' di ordine, se ce la si fa. Allora, PJ sta organizzando un raduno di runner, di omini e signorine che fanno jogging qui davanti in via Vittor Pisani. Lui ha lanciato l'appello, rispondono in parecchi. Abbiamo Sebastian, se organizza io ci sono. Abbiamo Peo Taxi, io passo col taxi e vi suono con il clacson. Va bene lo stesso? Sì. Dami 92. Beh, 92 è piccolissimo. Se vuoi io corro, però me la firmate voi l'assenza da scuola. Sì. E altri che adesso ovviamente non rintraccio perché sono... Redazione, però potreste mettermi a posto gli sms? Io non posso fare sto casino tutte le mattine, mannaggia, vabbè. Questo, allora, aspettate ragazzi, io voglio farvi capire come state messi. Elena 68 manda due messaggi, il primo è questo: sono entrata ora in macchina e iniziare la giornata con Can't You See è una cosa meravigliosa. Grazie, buona giornata Ariele. Effettivamente appena arrivato il messaggio ne ho parlato con Spadino, ho detto: Spadino, ma noi non abbiamo passato Can't You See? Arriva un messaggio 10 minuti dopo, sempre di Elena: scusate, ho sbagliato, era la mia cassetta, ma i baci valgono lo stesso. Va bene, abbiamo il collegamento con Andrea 147. Lui sa cosa fare per Pane, Burro e Rock and Roll e non si chiede cosa Pane, Burro e Rock and Roll deve fare per lui, ovvero studia la concorrenza. Perché noi qui non temiamo la concorrenza, anzi, la vogliamo studiare per batterli nella grande battaglia Davide contro Golia, la nicchia vincerà. A questo proposito saluto anche l'amico Marco che mi commentava: tutti i santi giorni, è carino come messaggio, eh? Sentite che poesia. Tutti i santi giorni consiglio a tutti di ascoltare Rock FM. Battaglia persa. Tutti al primo gracchiare della frequenza dicono Virgin qua, Virgin là, ma non sanno cosa si perdono. Sai cosa penso? Il segnale di Rock FM è furbo, mica ti dice sì al primo colpo. È come una bella donna, va corteggiato, come si usava una volta. Te lo devi meritare. Ecco cosa mi piace di voi. Avete della poesia dentro. What I like about you! Romantics! Tenetevi forte, c'è Pane, Burro e Rock and Roll! Hey! Hey! about you. Le strombazzate sono cumulative, ragazzi, perché ho parecchie richieste. Ho paura di non riuscire a leggere i messaggi, quindi intanto voi che me l'avete chiesta sapete che è per voi. Dopo ci provo. Anche perché adesso abbiamo nel reparto non chiederti cosa PBR può fare per te. Un saluto al nostro patentato 147. Settimana scorsa ha studiato la concorrenza con Sentendo M2O, da questa settimana, da lunedì, sta invece studiando Radio DJ. Buongiorno Andrea. Buongiorno Ariele, è uno sporco mestiere, ma qualcuno deve pur farlo. Ti sento decisamente meglio di settimana scorsa. Chiedo ancora scusa per l'ascolto forzato di no, M2O. È un dovere. Allora, in diretta concorrenza, pane, burro e rock and roll, c'è, dicevamo, Platinette. Esatto. Che Platinette, tra l'altro, mi avevi chiesto di informarmi su come era vestita, esatto, mentre trasmetteva. Esatto. Di fatto la webcam è spenta, ricordiamo che è spento sul sito, e però ho beccato un'intervista ad un DJ collega di Platinette, Andrea Marchesi, tra l'altro mio simile omonimo, che dice che Platinette è vestita da uomo quando conduce. E quindi non è vestita come da Costanzo. No. Argomento di questi ultimi giorni cos'era? Guarda, carini sono stati i pettegolezzi, quindi okay, hanno fatto una scorsa, cioè un elenco di pettegolezzi vari, tipo la relazione tra la Canalis e Valentino Rossi, vicenda Predolin, le chiacchiere che vinse le DS, Britney Spears che scappa con il suo ex, Fabia Vento, sta sul pezzo la ragazza, il ragazzo. La sua classica linea. Esatto, perfetto. Senti, ce la faremo mai a battere Radio DJ secondo te? Magari su Milano. Secondo me l'abbiamo già battuta. Poi. Allora, a questo proposito, io ricevevo degli SMS perché ti leggo questo. Sì. A proposito di Radio DJ, mi scrivono. Sì. Su Radio DJ fanno Chi vuole essere Marco Ranzani. Potremmo far evolvere la rubrica in Vuoi essere come Freak? Ma come? Cioè, infatti, ma questa che è copiata, è un plagio. Cioè, è già nostra la rubrica di Freak. C'era già la rubrica, un corso per diventare come Freak. Per diventare Freak Antonio. Però io non posso immaginare che Albertino ascolta Rock FM, è impossibile. Non lo so. Non però credo. Ti dico che ieri pomeriggio, sbagliando, ho ascoltato un po' di Radio DJ. Ah. E Nicky a un certo punto ha detto Tracu Tracu. Io sono rimasto un po' così, mi ricorda qualcosa. In che senso ha detto Tracu Tracu? La fa cantando, ha detto tracu tracu, esatto. Tropical Pizza. Io sono rimasto un po' così, mi ricorda. No, vabbè, Andrea adesso stava cantando, ha lanciato il pezzo. Cioè, tu dici tracu tracu. Ho detto esatto, tracu tracu. Tracu tracu, però è pane, burro, rock and roll, quello che ti dico, cioè, appunto, cioè, secondo me Andrea teniamo gli estremi per un plagio. No, vedi tu, potremmo tu anche guadagnarci qualcosina. No, teniamo le orecchie ben aperte, allora, appunto, perché noi studiamo, noi giochiamo a carte scoperte, cioè lo diciamo, stiamo ascoltando e ci segniamo le cose. Assolutamente. Ok, poi non è che Golia può copiare Davide, al massimo Davide copia Golia. Sì. Va bene, Andrea. Ci sentiamo settimana prossima con una nuova radio da studiare, eh? Assolutamente, lo sto già studiando. Hai già qualche idea? Cosa studierai? Stavo pensando a Radio Z. Beh, allora ti vuoi male. Sì. Sarà dura. Ciao Andrea. Ciao a tutti. E me che c'è? Doesn't make it right. Dolce Skin con Hedonism Skankanansi. Anzi, sono abbastanza felice io adesso. Ci sono i radioascoltatori, le radioascoltatrici. C'è Freak, c'è Spadino, insomma, siamo una squadra. T'ho detto che sto bene. Guarda, Skin, fidati, sto bello preciso, ok? 335-100-7777. Velocemente, perché abbiamo da tuffarci nel test attitudinale anche quest'oggi, però mi piaceva tantissimo questo messaggio di ringraziamento. Ciao, sono Angelo da Ravenna, grazie. Con il 51 e il 77 di ieri ho fatto ambo su Milano, ho vinto 250 euro, grazie ancora. Ciao Ariel, ciao Freak, ciao Angelo. Mannaggia Carlo della tabaccheria. Mannaggia te, cosa sono. Abbiamo dato tre numeri ieri, come facciamo due volte alla settimana, che cambiamo ogni due volte. È uscito un ambo, noi, Carlo della tabaccheria, ha giocato alterno, non è uscito. Goditeli, caro Angelo! Veloce, oggi vado... No, ragazzi, dai. Oggi vado con l'ingegnere a collaudare un iniettore angiografico. Un siringone di 30 centimetri meccanizzato che spara un liquido denso. L'ingegnere è donna. Giovane e carina, coglierà il sottile doppio senso? Guarda che sei scemo. A noi lo devi scrivere, ma guarda te. C'è uno che si fa delle domande così. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will, we big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it now. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace, somebody better put your bag into your place. Tracu ed è con uno slancio di batteria che vorrei tuffarci quest'oggi nell'appuntamento del test attitudinale. Il test attitudinale, quel famoso quiz. Bravo. Che permette ai nostri radioascoltatori e alle radioascoltatrici più attente di accumulare punticini per la strafamosa... strafamosissima, celeberrima patente del vero rocker. Oggi parliamo di cinema. A volte ci piace parlare di cinema. Cinema e rock, rock e cinema. Sì. Parliamo... un binomio molto interessante. Assolutamente sì, parliamo di Animal House, se lo ricorda. Ah, come dimenticare questo capolavoro. Esatto. Il primo esempio di commedia scolastica ambientata in un college americano. Tra gli attori principali, chi mi ricorda, Frick? Lo dica subito. Ma naturalmente il mitico John Belushi. Esattamente, lui interpretava il personaggio di Bluto. Bluto. Ma voi ricordate chi era nello specifico Bluto? Tre possibili soluzioni. Opzione A, Bluto era l'inseparabile amico di Dobolino. Ecco, sì, è vero e falsa. Bluto e Dobolino. Sì, esatto. Ma passiamo alla seconda. Chissà, Dobolino inteso come Mickey Mouse. Sì. Opzione B, Bluto è uno degli sgangherati componenti del gruppo Delta, una delle varie confraternite per studenti del college. Chissà se è questa la risposta esatta. Passiamo alla terza. Opzione C, Bluto è il rettore del college dove si svolge il film medesimo. Cosa faceva John Belushi nel personaggio di Bluto in Animal House? La risposta dopo, la soluzione come al solito ve la diamo tra poco.